All time rock and roll mercoledì. Meno male. Meno male che qualcuno è arrivato, perché avevo paura di farla da solo stasera la puntata. Da solo Enrico il Masa. Sì. Vabbè. Alla voce, intendevo alla voce. Hai affrontato uno dei più grandi tecnici qui. Sì. Che possono esistere da solo. Poi, scusa, da solo no. Maestri di puntualità, tranne Bindi. Bindi lo sappiamo che ha questo problemino. Insomma, iniziamo la puntata. Iniziamo la puntata come tutte le settimane con i compleanni. E oggi è il compleanno, sarebbe stato il compleanno di Dennis Carl Wilson, nato a Inglewood il 4 dicembre del 44. È stato un musicista statunitense. È stato il batterista del gruppo Beach Boys, di cui è stato anche membro fondatore assieme ai suoi fratelli Brian e Carl, al cugino Mike Valerio, Love. Scusa, puoi ripetere per favore? Perché? Ripeti, per ripeto, favore. Dennis Carl Wilson. Ok, perfetto. Okay. Non avevo capito bene la pronuncia del nome. Nato a Inglewood il 4 dicembre del 1944. È stato un musicista statunitense, batterista del gruppo Beach Boys, di cui è stato anche membro fondatore insieme ai fratelli Brian e Carl, al cugino Mike Lowe e all'amico Jardine. Nel 68 ha conosciuto due ragazze che lo hanno portato ad avere contatti con Charles Manson e i membri della sua famiglia, della sua family, di cui ha parlato in una breve intervista con grande paura per l'incolumità, io stasera non riesco a parlare, della propria famiglia. Nel 71 ha recitato accanto a James Taylor nel film Strada doppia corsia con la regia di Monty Hellman. Muore il 28 dicembre del 1983. Era ospite a bordo dell'imbarcazione di un amico quando, ubriaco, nel tentativo di recuperare alcuni oggetti, che aveva gettato in mare, in un eccesso di rabbia cadde in mare annegando. Era l'unico membro dei Beach Boys a praticare per davvero il surf. Che questa è una simpatica curiosità. È con surf in USA, sì, eh? È l'unico a praticare, che praticava il surf. Beach strano. Boys, wouldn't it be nice? Together, wouldn't it be nice if we could wake up, babe, on a land that is new? Have you ever spent the day? Ed eccoci, bentornati in diretta All Time Rock and Roll, sempre con noi, sempre affamati, sempre affiatati, soprattutto perché abbiamo fatto queste scale di corsa, specialmente io e il patro. Poi sì, quando arriverà il Bindi sentirete direttamente scialare nel microfono. Nel microfono. E finiti i compleanni, adesso vi parliamo, come di consueto, della storia del rock and roll. La canzone di oggi, o perlomeno quella di apertura della storia, è la canzone Twist and Shout, ed è una di quelle che se ne sono risentite centinaia di volte, una, ovvero una canzone da valorizzare ma partita dal gruppo sbagliato. Sì, perché inizialmente fu cantata dai Top Notes, ma non fecero una grandissima strada. L'avete macellata, fatta a pezzi, addirittura disse loro il produttore Bert Burns guardando il suo collaboratore. Fra l'altro un certo Phil Spector, che diventerà uno dei produttori più influenti e di successo della storia della musica. Così nel 62 Bert andò direttamente dagli Isley Brothers e gli disse: dimenticate come l'hanno rovinata, cantatela voi. Alla fine si decisero, più che altro per togliersi Bert di torno verso le sue insistenti pressioni. E niente popò di meno, la canzone volò in alto, incantando anche il produttore George Martin, che la fece cantare ai Beatles nel loro primo album. Come si dice, buona la prima. Martin infatti affermò: avrei gradito una seconda registrazione, ma John aveva perso la voce. Infatti la voce di Lennon bastò per una sola registrazione, aveva l'influenza e a nulla erano valsi molti bicchieri di latte e le molte gocce sul naso. Finalmente Twist and Shout trova un gruppo da cui essere rappresentata. Twist and Shout, i Beatles. Speriamo che a voi sia arrivata bene la canzone, perché noi non la sentivamo benissimo. Eccoci dunque arrivati alla parte che avrebbe dovuto leggere il Bindi, però non c'è. Gli anni della grande diffusione del rock and roll furono gli anni 60. Il rock arrivò in Europa, in particolar modo in Gran Bretagna, dove erano giunti dagli Stati Uniti il jazz, il blues, il country e il folk. Così in Inghilterra la scena musicale del rock and roll crebbe molto velocemente. La svolta si registrò nel 62, quando gruppi come i Beatles, Who, Yardbirds, Rolling Stones fecero la loro comparsa nel panorama musicale dell'epoca. Inizialmente reinterpretavano brani musicali americani, ma verso la metà degli anni 60 iniziarono a inserire nelle loro composizioni idee musicali più complesse e particolari, diventando veri e propri mostri sacri del rock. Noi oggi vi parleremo dei primi anni 60, in cui accesero nuovi movimenti di protesta giovanile. La sensibilità portava la nuova generazione a lottare, ad esempio, contro la sanguinosa guerra del Vietnam. E fu soprattutto in questo periodo che la controcultura beat nascente e i movimenti pacifisti vennero associati alla musica folk, che in quegli anni era ai suoi albori. I ritmi delle canzoni tradizionali vennero rivisitati con sonorità acustiche, mentre i testi riguardavano sempre più tematiche sociali o politiche. Con il genere folk rock emerse il giovane cantautore Bob Dylan, con le sue Blowing in the Wind e Masters of War. Riuscì ad avvicinare le canzoni di protesta ad un pubblico molto più vasto. In nessun modo si possono spiegare quasi 50 anni di musica popolare senza parlare di Blowing in the Wind, brano con cui Robert Zimmerman diventa Dylan e si presenta al mondo con una chitarra ed un'armonica. Blowing in the Wind vede la luce invece il 16 aprile 1962. Dylan e David Blue, un altro artista folk dell'epoca, avevano trascorso l'ultima parte del pomeriggio a bere caffè e chiacchierare. Verso le 5 Bob tira fuori la chitarra, un pezzo di carta e una matita e domandò se poteva provare davanti all'amico un abbozzo di canzone che aveva composto qualche ora prima, per correggere e perfezionare i versi e le rime. Subito dopo si spostarono al Gardner's Folk City, il locale del Greenwich Village di New York, dove stava fiorendo la rinascita del folk. Proprio lì Blowing in the Wind fu presentata ufficialmente al pubblico, che al termine della canzone si alzò in piedi per applaudire. Fu quella la prima standing ovation per Dylan. Blowing in the Wind è in realtà, anche se è difficile da credere, l'adattamento di uno spiritual nero, No More Action Black, in origine cantato dagli schiavi in Canada. Lo stesso Dylan poi successivamente ha ammesso la fonte senza troppi problemi. Forse ha ragione lui, la musica popolare vive di riadattamenti, forse è davvero questo l'unico modo per mantenerla in vita. Fatto sta che Blowing in the Wind ha mantenuto in vita il folk, ma al tempo stesso ha inaugurato un'epoca di diritti civili, contestazioni, sogni e utopie. Pensate a quanto può fare una canzone, anche se ha solo domande, perché le risposte soffiano nel vento. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Una delle più belle canzoni di tutti i tempi, Blowing in the Wind di Bob Dylan. Bellissima. Continuiamo e continuiamo la nostra storia con altri artisti. Scherzo. No, non è arrivato. No. Sono girato di scatto, no. Dico dove? Io ho visto loro quattro, cioè noi quattro, tutti girati, dici. Tipo una visione. Altri artisti, sempre facenti parte del filone della musica impegnata adesso politicamente. Adesso io mi immagino quando, scusa Nan, mi immagino quando arriva veramente, che dico, è arrivato il Bindi, nessuno si gira. Ovvio. Oh, ciao ragazzi, nessuno proprio. Hai visto quando fai, profondamente con quando noi. Fai al lupo e poi dopo nessuno più ci esattamente, crede, uguale. Bravo. Altri artisti, sempre facenti parte del filone della musica impegnata politicamente, si interessarono al combattimento. Non mi torna il discorso. Si interessarono combattendo apertamente al fianco dei giovani le ingiustizie del mondo. Furono Roy Orbison, The Animals, The Kinks, i Beatles, i Beach Boys e tanti altri ancora. Dal punto di vista tecnico non avvennero molti cambiamenti, ma gli arrangiamenti musicali si fecero più complessi. Un esempio è Pretty Woman. Pretty Woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. What do I see? Is she walking back to me? Pretty Woman. Allora, giusto? Allora vai. Cioè, okay. Roy Orbison, ora l'ho detto bene? Sì, ora l'hai detto bene. Orbison. Ho capito che sei il disannunciatore ufficiale, ma fammi disannunciare qualche canzone lui anche a volte me. A volte disannuncia anche se stesso. Sì, qualche sì, volta. Veramente. Alle volte. Quando, prima di andare a letto, era Valerio Nannotti nel giorno... si disannuncia da solo, veramente, è una cosa... Vabbè, bravo. Di cosa parliamo adesso? Adesso parliamo della Casa del Sole. No, hanno bussato, no. Parliamo della Casa del Sole, che nasce il Bindi. No, ancora, eh? Ciao, Bindo. Nasce in un bordello di New Orleans. il quale venne chiuso per le proteste dei vicini. La titolare era Madame Le Soleil Levant. Le Soleil. Le Soleil. Le Soleil. Ora, perché hai pronunciato Roy Orbison bene, non è che sai tutti, cioè, piano. Era Madame Le Soleil Levant. E come si può intuire, la canzone prendeva il nome dalla proprietaria del bordello, appunto. The House of the Rising Sun, no? The House of the Rising Sun, scusate, è un traditional dalle origini incerte, nonostante fosse cantata da Bob Dylan. La versione che tutti ricordano è quella cantata dagli Animals del 1964. No, ma se no, 1964. Leggendaria per due. No, invece no, vedi. Ora te l'ho detto, quando entra veramente, sì, sì. Niente. Ciao ragazzi. Ciao, niente, noi che continuiamo, ciao. Leggendaria per almeno due motivi. Uno, perché era la prima volta che una strumentalizzazione profondamente rock si metteva al servizio di una ballata folk, cosa molto particolare effettivamente. E due, perché la voce di Eric Burdon sembrava veramente la voce della vittima della storia. La vittima non era più una donna, ma un uomo che si era giocato i soldi e la vita, esattamente come aveva fatto il padre di Burdon. Alla fine del brano sta tornando a New Orleans, ma con una palla al piede da carcerato. I The Animals con The House of the Rising Sun. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Away. Gli Animals con The House of the Rising Sun. Lo sapevo, l'animale, lo sapevo. L'animale. E adesso continuiamo con You Really Got Me. No. Primo, bella, bella. Primo ad arrivare in vetta in Inghilterra e apripista in America. È un singolo dei Kinks, brano ritenuto fondamentale per l'evoluzione dell'hard rock e dell'heavy metal. Per anni è circolata la notizia che il leggendario assolo di chitarra, incluso nella canzone, non fosse di Dave Davis, all'epoca 17enne, ma di un certo Jimmy Page. Page. Uno la circostanza poi venne successivamente smentita, ma in compenso c'è John Lord dei Deep Purple al piano. Brano di grande importanza non solo per le classifiche, ma anche per il nuovo che avanza in quegli anni. Infatti, Pete Townshend, yes! Yeah. No, lo devo dire io. Dillo te. Aspetta, rinizia da Deep Purple. No, come troppo. Da Deep Purple? No, sì, riniziamo dalla prima puntata. Allora rinizio. Brano di grande importanza non solo per le classifiche, ma anche per il nuovo che avanza in quegli anni. Infatti, Pete Townshend dichiarerà che il primo singolo dei U, A Can Explain, era un tentativo di suonare come i Kinks in You Really Got Me. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. Grazie. Bravo. Ma gli metto le mani addosso oggi, guarda, veramente è insopportabile. Allora, stavo diciamo blaterando qui con il mio collega Patrussi sul fatto che questa è forse una delle mie puntate preferite. Sì, vero. Delle nostre puntate per la qualità della... cioè, dite la verità, allora, dite la verità, non c'è il bindi allora. Ma a parte quello no, che al di là dell'aspetto tecnico che il Mazzeo oggi ha reso perfettamente come sempre. Meglio da solo che in coppia. Meglio solo che mal accompagnato. Voglio ricordare che il Mazzeo ha preso lezioni da un grande che sono io. Si vede che lui è abituato, lui è abituato perché gioca da libero, capito? È vero. No, ma stavo dicendo che praticamente questa puntata è così concentrata di belle canzoni che insomma veramente belle canzoni. Sì. Beh, poi cioè mettiamo sempre bella musica, quello sì, però qui c'è oggi c'è un plus. Però sì, oggi veramente c'è sono un davvero doppio bellissime. Concentrato di pomodoro, di canzoni oggi. Sì, di pomodoro no. E ora che canzone abbiamo? Engop. Allora, abbiamo la non pizza. Non volendo, era il compleanno dei Beach Boys, di un membro dei Beach Boys e citiamo ancora sì, esatto. I Beach Boys. Esatto, i Beach Boys. Esatto. I Get Around è un brano musicale appunto composto da Brian Wilson e Mike Love dei Beach Boys appunto. La canzone contiene la parola love all'inizio di tutte le strofe. Voilà. All'inizio di tutte le strofe e Wilson al canto nel ritornello. La struttura, cosa vorresti dire? Che sono noioso? No. Ho fatto apposta per abbassare la testa e ecco, mettermi fra te e la scaletta. Che tenero che sei. Grazie. Prego. Dunque, vogliamo perderci dell'altro oppure vogliamo continuare? Fate Bobis, io. La struttura del brano è particolare per la sua caratteristica di iniziare dal ritornello e di avere solo due brevi strofe. Venne pubblicata sul singolo nel 64. I Get Around fece anche meglio, classificandosi al primo posto e divenendo la prima hit da numero uno in classifica per i Beach Boys. Eh beh. E fu il primo successo da top 10. Non aggiungo altro. Beach Boys. Strip. I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, get around, round, round, I get around. Entra te, Pat. Sì, e per la seconda volta in questa puntata i Beach Boys con la loro I Get Around. E adesso? E adesso abbiamo terminato la nostra storia del rock, la nostra rubrica della storia del rock, e andiamo avanti con la rubrica delle citazioni. Cosa sono le citazioni, Luke? Lo faccio dire a te, vediamo, dai. Cosa citazioni? Le citazioni, dal verbo citare, sono frasi o aforismi che ripercorrono e diciamo che affrontano classi, tematiche mamma della vita mia quotidiana di tutti i giorni. Bravo, bravo, bravo, applauso. Non è vero. Potrebbe essere una citazione da me medesimo. Esatto. Essendomi immedesimato nella parte di me medesimo. Se vedi, siamo corti oggi. No, dai. Appunto, citazioni, come hai spiegato tu, chiaramente però sulla storia del rock, cioè no, sulla storia del rock, sul mondo del rock and roll. E la prima di oggi è di Jordan Pandick, cantante dei New Found Glory. La timidezza è un difetto che è rischioso rimproverare alle persone che vogliamo correggere. Kiss me Newfound Glory e adesso, con Kiss Me. Sì, e adesso la seconda. Il Bindi! Il Bindi! Il Bindi. Cioè, davvero è arrivato. Un saluto a tutti i miei fans. Volevo specificare su questa canzone che la versione originale era dei Sixpence. Guardate che il Bindi è dalle 7 che era chiuso in bagno. Ah. Sono entrato io, stavo facendo la doccia. Dicevo che la canzone originale era The Sixpence, non The Richer. Oh, grazie. Canzone resa celebre da un telefilm famosissimo. Lo sai, Patro, qual era? Te lo ricordi? No. Dawson Creek. Ah, sì? Sì. Ah, non lo sapevo. Non lo sapevo. Oh, sì. Mille. No, non è che non lo sapevo. Più che altro non guardavo Dawson Creek, Valerio. Ah, io lo guardavo invece. Mi garbava, grazie, sì. Grazie mille. E sti complimenti. Continuiamo, grazie, con le continuiamo con le citazioni. Sì, a chi sta? Sì. A me. Ah. E la citazione di Geek Arnett, cantante dei Overphonics, che una volta ha detto: la felicità è un modo di vedere. Overphonic, bellissimo. Ragazzi, ma altra canzone usata, forse anche abusata dal cinema e dalla televisione un pochino. Sì, dipende. Tantissimi film. Ma questo sai, dipende anche da chi la vuole vendere. Giustamente. Ad esempio, Jim Morrison non ha mai svenduto le sue canzoni. Ognuno con i suoi diritti fa quello che vuole. È certo. la canzone è mia, faccio che mi pare. Esatto, ecco. Esatto. Perché è buono qui. È buono. Cos'è? Cosa c'entra? È buono qui. Quindi è arrivato un'altra volta. Ciao. Saluta per bene, aspetta che ti porgo il microfono. Saluta tu. Ciao. Aspetta che ti porgo, non lo sentivo dal 92. Che te la pongo, che te la pongo. Non è molto rock che te la pongo. È quasi Natale. È quasi Natale. È vero. Cioè, è volato. Le lucine sono attaccate da agosto più o meno. Beh, le hanno accese adesso. A parte quello, però sai, c'è anche dietro tutto. Vabbè, a casa dei nanotti sono sempre sono attaccate. Sono sempre attaccate. Il giorno di Pasqua colpa c'è. Colpa mia. Allora, veramente, ragazzi. Purtroppo c'è... abito con altre persone. Non è mai colpa sua. Cioè, le lucine di Natale arrotolate intorno alle colonne fuori di casa 365 giorni all'anno. Da 3 anni buoni, sono 3 Natali. No, fermo, c'è anche il tubo con le lucine dentro a fuori. Ma di esatto. Ma voi non avete capito, è una questione di economia di tempo. Cioè, che senso ha prenderle, toglierle? Sì. No, riattacchi la spina. Sì, giustamente. E sono tutte fulminate. E vabbè, quello sono particolari. No, comunque vogliamo dire l'ultima citazione di oggi o vogliamo fare altro? No, adesso vediamo come ci prende. Poi okay. Dopo. No, c'è sempre tempo. Comunque sempre veramente tempo. È già Natale. Cioè, io dicevo l'altro giorno, io ancora mi devo riprendere al lavoro. Ah, pensavo del Natale prima. No, io mi devo del capretto del 92. Bravo, ancora mi era rimasto qui. Un po' sullo stomaco. No, io ancora mi devo riprendere dall'estate, che sono ritornato dalle ferie. È già Natale, incredibile. È già Natale. E quindi altre ferie. È già Natale. È già Natale 2000. Lamentiamoci. È già Natale 2014. È incredibile, veramente. È incredibile. Siamo allora, visto che stiamo parlando del più del meno, vi racconto cosa mi è successo oggi. Attenzione. Cosa molto triste, guarda, sono molto abbattuto. Allora, il masazzo. Allora, oh, noi parliamo del Natale, parliamo di cose belle. Passeggiavo per il paese a guardare le luminarie. No, scherzo, non a guardare le luminarie. Stavo facendo commissioni. Mi ferma un ragazzo. Commissioni. Sui 15. Io, Bindo, mi apri un dizionario per favore. Conosco, sono quelle in banca. Vabbè, sì, io la posta, vabbè, è la stessa shopping, cosa. Via. Insomma, mi ferma questo ragazzo, sapete come mi ha fermato? Con un calcio. No. Rotante. Senta signorina. No. Mi fa, come mi porti scusi. I capelli bella bionda. Mi fa, mi scusi. Cioè, ha capito, mi ha dato del lei. Educato. Tu sei vecchio. È vero che sono vecchio, ma. Lei ha 30 anni. Vabbè, educato, mi scusi lei, educato. Sì, faccio. Ma lì per lì, siccome è la prima volta che mi succede, cioè sono vabbè, rimasto se un attimino. Il gesto dell'ombrello era peggio. Ah, sì, sicuramente. Tu c'hai 30 anni. Nini, tu sei vecchio. E andiamo avanti allora con le citazioni. Sì, proseguiamo con l'ultima citazione per oggi, sì. Ovvero del egregissimo, amatissimo, fantastico Jim Morrison. Che prima non l'hai buttato lì proprio a caso. No, infatti. Anche perché comunque è vero. Beh. Pensa un po', i Doors a sua insaputa gli avevano venduto Light My Fire per uno spot pubblicitario di automobili. E lui si è arrabbiato, lui giustamente. Si arrabbiò come una bestia. Entrò in studio, spaccò tutto e poi disse... Poi automobili, consumismo, non era proprio e la poi sua disse cosa. No, il traduppio al produttore, che non è più usato. Comunque... Noi giovani siamo troppo violenti, magari un po' fuori di testa, ma l'unica cosa che ci differenzia dagli altri è che loro ragionano col cervello. Noi, gente pazza, ragioniamo col cuore. Safety or survival. Allo zoo. Jim Morrison, The End. Abbiamo questa versione un po' psichedelica alla fine. Sì, molto psichedelica. Sì, dovevamo mettere la versione veramente più, più estesa, ce l'avevamo sentire tutta. L'avevo trovata una da 16 minuti. Non mi sono usato ad ascoltarla, guarda. 16 minuti inizia. Era un po' forse tantino. Era un live. Belle? Era un live per caso? Forse era un live. Ci sta, sì. Benissimo, ragazzi. Senti, ci ha rimesso grande Masa, tecnico, grande Masa. Senti qua, sottofondo. Però ci stanno bene, eh? Vero, sì, è vero. Sai che non è male. Beach Boys regalano queste gioie. Come? regalano queste gioie i Beach Boys. Ah, no, no, fra cui al Patro piacciono moltissimo. Sì, sì. Ah, prima c'era tutti gli album. Ci eravamo scordati di dirlo. Questa canzone è famosissima per un altro film. Vediamo se te lo ricordi. Sì, sì, 50 volte il primo passo. Bravo Patro, bravo. Che l'ho visto più o meno una volta. Una volta, non però. 50, però vabbè. Molto carino, molto carino. Allora siamo arrivati alla fine. Sei sdolcinato cinematograficamente parlando, Valerio. Mi capita di vedere questi film. Sì, tu li guardi veramente. Un film lo guardi 30 volte. Allora, ieri mi sono riguardato American Gangster per la 50esima volta. Per lui 50 volte il primo bacio diventano 350 volte il primo bacio. Sì, come le luci di Natale, uguale. E poi quando lascia a metà un film, a ognuno il suo, ragazzi. Non è che lo riprende da dove è interrotto. A ognuno il suo, via. Siamo arrivati alla fine anche per oggi. Sì. Il signor DJ Patrussi qui ci ricorderà tutti gli appuntamenti, perché ormai è lui il guru del ricordo. Tu sei il guru di disannunciare le canzoni, sono il guru della chiusura. Ovvio, così. Ovvio. Bindo e il Masa sono, vabbè. Come sempre proprio... chiudiamo, siamo arrivati alla fine. Ricordo i nostri appuntamenti, c'è cioè la pagina Facebook Old Time Rock and Roll, dove potete mettere mi piace, dove potete mettere anche qualche commentino, qualche ogni commento, tanto. Comunque anche le vostre dediche se volete, non vi fate, non vi vergognate. Ma buttiamola lì, se anche volete richiedere una canzone. Sì, esattamente, esatto. E sempre sulla pagina Facebook potete trovare sia il podcast di questa canzone, di questa puntata che vi potete riascoltare. Beh, l'ho dato troppo, sì, mi sono emozionato troppo, è vero, lo so. E potete anche trovare il contest, cioè il concorsone. Cos'è il concorsone? Sono le 5 canzoni che noi scegliamo e che voi potete votare. La vincente chiaramente verrà messa in onda. Prima di chiudere ricordiamo l'appuntamento di stasera con Sugar Night. Sì, vero. Con Claudio Sandy dalle 22 alle 23. Ok, e domani sempre, invece sempre domani sera dalle 22 alle 23 andrà in onda Piazza Alta. Un saluto da Old Time Rock and Roll. Io sono il Nanno. Io il Patru. Ciao. Ciao mitici. Ciao a tutti. Ciao.